Radio 24 Reportage. L'Italia che verrà. Consumi e ripresa consapevole di Maria Luisa Pezzani. Questa settimana l'iniziativa di Radio 24, l'Italia che verrà. Dopo 7 anni di crisi, molti settori registrano i primi segnali positivi. Di certo però molte cose sono cambiate. I nostri stili di vita, le nostre abitudini d'acquisto, il mondo del lavoro. Oggi parliamo di consumi e ripresa consapevole. Ma dove li ho messi i soldi? Un po' ne ho guadagnati. A $400 il paio, quante paia ne avrai tu? 100 paia per 400, ci facevi l'anticipo. Vuoi dire che ho speso la bellezza di $40,000 per comprarmi qualche paio di scarpe e ora non ho dove vivere? Era il 2003, sembra passato un secolo. Prima della crisi, la passione sfrenata per le scarpe della protagonista di Sex and the City faceva sorridere. Ora è lo specchio di un'era e di un atteggiamento verso i consumi che non tornerà più, crisi o non crisi. In questi anni i consumatori hanno completamente rivoluzionato le proprie abitudini all'insegna di acquisti più consapevoli e ragionati, fatti di un'attenta valutazione sul prezzo, la qualità, l'impatto ambientale e sociale dei prodotti, il loro effettivo utilizzo, la possibilità, perché no, di scambiarli, affittarli e rivenderli. Analizzare il mondo dei consumi oggi sotto questa prospettiva significa raccontare l'Italia che verrà, quella che dobbiamo aspettarci dopo 7 anni di crisi, quella che racconta il carrello della spesa, il nostro giro di shopping on e offline, le nostre vacanze, il nostro modo di spostarci, di divertirci e quello che le imprese da tutto ciò hanno imparato. Il sociologo Francesco Morace parla di consumatori neopragmatici. Saranno loro i protagonisti della stagione di acquisti natalizia che, ce lo dicono molti indicatori, segnerà la fine della crisi, con una propensione della spesa in crescita per la prima volta dopo anni. Sono cambiati, sono molto consapevoli, li definirei neopragmatici, hanno imparato a fare le loro scelte, in alcuni casi anche di fronte a risorse più contenute, ma senza rinunciare all'elemento del piacere e della felicità. Credo che sarà il primo Natale dopo tanti anni in cui questa dimensione pragmatica e quindi anche di nuova attenzione sicuramente anche alla spesa possa conciliarsi bene con una visione più felice. Tutto ciò che aiuta ad esempio a condividere, alla dimensione conviviale, direi un consumo meno privato, tornano consumi un tempo considerati superflui ma che in realtà ci aiutano a vivere meglio. Sicuramente è un parametro del valore che è sganciato dal costo. Ecco, questa credo sia una cosa decisiva e importante che ci porteremo avanti anche nei prossimi anni. Le persone un tempo acquistavano prodotti di pregio ma molto cari per problemi di status. Questo oggi non esiste più, esiste il valore non solo percepito ma il valore reale di un'esperienza, e quindi a volte il valore corrisponde anche a un prezzo alto, altre volte invece, come sappiamo, il valore è quello che condividiamo e quindi anche oggetti più semplici che sono però di grande valore affettivo, ad esempio. Mi manca un chilo di pace integrale. In questi 7 anni, ci dice il rapporto Consumi Coop, le famiglie italiane hanno lasciato sul piatto 122 miliardi di euro, 47 di minori risparmi e ben 75 di minori consumi. Alla ricerca del prezzo migliore siamo diventati tutti consumatori infedeli. Per la nostra spesa, in un anno, cambiamo una ventina di punti vendita diversi e frequentiamo molto meno gli ipermercati, molto di più i discount. Siamo disposti a spendere per la nostra salute, cibo bio, palestre, wellness, meno per i vizi di un tempo, alcol e fumo in testa. E poi, complice la rivoluzione digitale, la sensibilità ambientale e la sharing economy, usiamo molto meno l'auto. La seconda in famiglia è stata spesso sostituita dal car sharing o dalla bicicletta che molti diciottenni oggi chiedono come regalo al posto delle quattro ruote. Non disdegniamo gli oggetti di seconda mano in un mercato che oggi vale 18 miliardi di euro e compriamo molti prodotti, anche il cibo, online se serve a risparmiare tempo e denaro. E il lusso che fine ha fatto? Il settore, lo sappiamo, non ha sofferto la crisi, ma tolto l'export e i consumatori stranieri, quanto pesa il consumatore di casa nostra? Com'è cambiato? Armando Branchini, vicepresidente di Altagamma. Certamente c'è stata una selezione tra i consumatori. C'è da dire però che i consumatori che hanno sperimentato negli anni prodotti di qualità superiore semmai hanno rarefatto gli acquisti nei momenti psicologicamente più difficili, ma non hanno fatto downgrading, non hanno dequalificato l'acquisto. Il consumatore di casa nostra diciamo che vale attorno al 15%. Se confrontiamo quanto l'industria alta gamma ha fatturato nel 2010 e quanto fatturerà nel 2015, troviamo una crescita quasi del 40%. Questa crescita è avvenuta nel mondo, è venuta fuori d'Italia, per cui non c'è dubbio che c'è stata una straordinaria reattività di questi industriali, di questi manager, a trovare la possibilità di crescere all'estero proprio perché non potevano contare su una crescita del mercato interno, e questo ha voluto dire anche dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista del retail diretto, potersi adattare a mercati nuovi, consumatori nuovi, asiatici ma anche latinoamericani, ma anche nordamericani. Ci saranno nelle prossime collezioni prodotti anche apposta per gli europei, prodotti apposta per gli asiatici, prodotti apposta per i nordamericani e per i latinoamericani. Anche per outlet e centri commerciali quella che si apre è una fase nuova all'insegna dei servizi, ci dice Massimo Moretti, presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Dall'estate dell'anno scorso registriamo dei fatturati in crescita dei nostri centri commerciali. Prima dei segnali timidi, in questo terzo quarter del 2015 noi facciamo più 4%, esclusi gli ipermercati che hanno ancora insomma qualche difficoltà, e il più 4% in tutti i settori, addirittura l'abbigliamento fa più 4,5%. Secondo me la crisi è finita, non parliamo più di crisi. È una fase nuova che a me piace chiamare ripresa consapevole. C'è stata una fase nella quale la componente prezzo era palo di 2012, 13, insomma 11, che sono stati gli anni più bui, nel quale la componente prezzo era preponderante. Addirittura abbiamo avuto dei consumatori che non venivano a trovarci proprio per non avere lo stimolo al consumo, mi passa. Oggi è un consumatore che è attento a una nuova convivialità, molto più attento anche sulla componente servizi, non solo quelli tradizionali che ahimè non trovi più nei centri città, dalla lavanderia alla banca, parrucchieri, ma anche dei servizi più evoluti, legati comunque magari al mondo del pet, degli animali domestici, o il grande successo con i numeri straordinari di fatturato delle cliniche odontoiatriche nei centri commerciali. Ma il grande protagonista oggi nel mondo dei consumi è l'e-commerce, che continua a crescere a doppia cifra. Secondo Netcom, gli italiani che comprano online sono ormai 17 milioni. 17 miliardi, il peso del settore, che rappresenta una grande opportunità per molte delle nostre imprese. Altro capitolo, la sharing economy, l'economia collaborativa basata sullo scambio e la condivisione di beni e servizi. Un'economia che sta cambiando la cultura del consumo, diffondendo pratiche basate sull'accesso anziché sul possesso. Da Airbnb a Uber, passando per Car2Go, BlaBlaCar e le innumerevoli piattaforme che cambiano le nostre abitudini quotidiane di consumo e di vita. Un italiano su quattro le utilizza, ci rivela la ricerca di TNS Italia, Federico Capeci. Beh, inizia a pesare parecchio, devo dire, siamo oramai ad una soglia del 25%, ovvero circa 10 milioni, perché la nostra indagine ha toccato le persone connesse ad internet. Ed è un dato piuttosto significativo, perché rispetto all'anno scorso abbiamo guadagnato 1 milione di nuove persone. Se inoltre pensiamo che già solo 2 anni fa il dato era praticamente la metà, capiamo la portata di questo avanzamento. Circa la metà di chi oggi utilizza questi servizi ha meno di 34 anni, quindi diciamo la componente principale, come in molte situazioni innovative, viene da loro. Però si sta sempre di più ampliando verso fasce anche più mature, che una volta connesse con la tecnologia riescono a sfruttare queste nuove opportunità. Le motivazioni sono molteplici, si è partito dalla motivazione anche più, se volete, solidale ed anche ecologica per certi aspetti, per affiancare altre motivazioni. c'è l'aspetto economico che è ancora estremamente importante, ma questo si sta declinando anche con una forma di imprenditorialità che fino a pochi anni fa non c'era. E poi c'è la voglia di stare insieme, mettere insieme cose e anche sviluppare un po' la creatività. I settori ad oggi più interessati sono i viaggi, la ristorazione, il settore del divertimento in generale e del leisure è molto impattato. Insieme a questo anche il settore della mobilità, quindi i trasporti. Quelli più in crescita rimangono ancora questi due, senza dubbio, sono quelli destinati a cambiare proprio le regole del gioco, del modo di fare impresa in questi ambiti, ma si sta affiancando anche il settore finanziario, quindi farsi prestiti tra persone piuttosto che andare in banca, e mi sembra molto interessante. L'economista Jeremy Rifkin la vede così. Vediamo molti giovani che vivono sperimentando sia il possesso che l'accesso, producendo e condividendo non solo video e notizie sui blog, ma anche energia rinnovabile, oggetti realizzati con la loro stampante 3D, auto con il car sharing, case e appartamenti su Airbnb. Quindi c'è una doppia economia che sta emergendo con la generazione digitale.